Cara, perdonami, è tanto attrivimento, se mi permetti scusa di inviare. Notizia potente che si spense nelle ore. Narrare a momento a questo coro sole stimare. Te certo su uno so mi sunnende di espropriamente innamorende. Parole su biglietto apporezzito e mi costringe se ha una risposta. Non ti creta schimappa impedito per un amore si lo so disposta. Si dà una degai suggerito e sfalsità del faula composta, non ti arretta gente che lo è niente, che non so ognuno suo amore. Non so quale non so quale. E naschi con ognuno se si sposa e a sa gente retta non li dare, devo che tu esami a te si cosa fino a come mi manco a vivenza. Ma canter bella sa vita amorosa, lo vodes tu e tutto immaginare, la queria provare e devo pure però la pagherà a colpo un segno. Però non da ma canter bella la vita amorosa, lo volesti tu e tutto immaginare, la queria provare di auguro, però da pagare a colpo sicuro. Bye. Baš tu bi užu od talaza, a noti škrio baš od trupu in delirio, žobro vejna. Si mi dieran solo ghiassure, catter un ottimo otto regalare, se non d'amore a coro, amore a mai. Mai, non d'amore, amore a mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mi da mi da ma ma ma ma la la ma ma ma la la mi da mi da ma ma ma ma la la ma ma ma la la li la la comare dimmi sa colora morta e isabbia la leala in mano. Disse la lea piano piano che la bone dei nuove che era posta.